Amici di Ramtime, bentornati ed eccoci a OGM, oltranzisti, gastricamente maleducati. Questa sera, in una versione che fa da coda a Tecnopills Live, che abbiamo appena ascoltato col mitico Alex Raccuglia, sono con me a farmi compagnia in questa formazione che ormai avete anche imparato a conoscere, perché non è la prima volta che l'ascoltate, in rigoroso ordine alfabetico casuale, Lobby Lobster Frontali. Salve, salve, buon venerdì mattina a tutti. Gualdi, Marco, il distruggitore, ma in questo periodo intitolato con un nuovo titolo onorifico, che è il portatore di morte. Buonasera. Salve, io sono qui, siamo pronti a cominciare la visione della strada. Dico subito che già c'è una signora di una certa età che è uscita dal Bangladesh con una bottiglia bianca in mano e una mascherina. Quindi siamo in attesa di sapere cosa ne farà di questa bottiglia. Ma una certa età, che età? Infatti. Sopra i 60. Ma siamo sul Cougar o niente? No, Granny, io direi Granny. Mamma, no dai, 60, Granny è presto. Vabbè, saluto anche Carmine Puccio Console, ben trovato anche a te. Ben trovati a tutti voi. Io saluto gli amici in chat anche che ci stanno ascoltando, Ciro Capasso che saluta subito Lobby, saluto Alex che si è trattenuto e quindi tra l'altro se vuole per caso entrare in diretta è sempre il benvenuto. Stavi dicendo qualcosa, Carmine? No, stavo dicendo che anch'io ho una visione Granny dal mio balcone, però nel mio caso è più preoccupante, sono in tre insieme e non rispettano la distanza di sicurezza. Un trenino? Chiama sindaco. C'è l'applicazione spiona. Sì, c'è l'apposita applicazione. A proposito, ragazzi, un aggiornamento. Noi dicevamo che non si possono fare segnalazioni anonime. È vero. Però a quanto pare per le violenze domestiche sì. Vabbè, quello è diverso, però su quello sono d'accordo, sì. Perché segnalazione anonima serve alla vittima. Visto che in teoria dovrebbero, cioè in Cina, quando è successo il lockdown in Cina, sono triplicate queste cose. Non vedo perché in Italia dovrebbe essere diversa. Attenzione, breaking news: la signora di una certa età sta uscendo con dei pacchi di immondezza, sta aprendo il cassonetto nero e ha già buttato il casso nero. Un altro, la seconda busta, si è chinata per la terza busta, però ci ha ripensato, ha perso la quarta busta e ha tenuto la terza per sé. Vediamo che cosa ne fa della terza busta. Si dirige verso il cassonetto con il tappo marrone e lo butta dentro, l'ha chiuso e adesso si avvia verso casa, verso la porta di casa. Posto. Perfetto. Hai igienizzato le mani dopo aver toccato l'immondezza? Purtroppo no, aveva i guanti. I guanti, li togli a posto. Comunque, di che si voleva parlare stasera? L'argomento ce li abbiamo, perché diciamo che non c'è una giornata avida di argomenti che siano adatti a OGM in questi giorni, perché oggi avremo da parlare di Fontana, che ha voluto inaugurare con una conferenza stampa il nuovo ospedale realizzato rapidamente con l'aiuto di Bertolaso a Milano Fiera, e ovviamente cosa poteva fare di meglio se non creare un assembramento? Poi possiamo parlare di tante altre cose, parliamo anche di quello che sta succedendo in Ungheria e del fatto che l'Europa tace, lo faremo sempre a modo nostro. Però volevo dire, visto che ci siamo, noi siamo sempre anche Runtime per il sociale, se vi va prenderei due minuti al volo per chiedere a Carmine di farci un breve riepilogo dei numeri della giornata che sono usciti mentre iniziavamo la diretta. Eh sì, sono usciti mentre andavamo in diretta. Dunque, in questo momento abbiamo trend sempre in calo, quindi con 2100 nuovi positivi, un po' più di ieri che erano 1650 circa. Però durante la conferenza della protezione civile è emerso che oggi abbiamo un totale di 6000 tamponi in più rispetto a ieri. Quindi più tamponi, più positivi rispetto a ieri, però in realtà neanche tantissimi. Abbiamo purtroppo sempre 830 morti, circa 837, sta riportando ora Repubblica, circa 1200 nuovi guariti in più. Quindi migliora, ma non va ancora bene. Se non sbaglio c'è un altro dato, perlomeno per la Lombardia, non ho visto per il resto della nazione, che dovrebbe essere... Sì, Lombardia in totale ha 1047 contagi in più, quindi su 2100 che ce ne sono nuovi in tutta Italia, metà esatta sono in Lombardia. Volevo evidenziare che c'è un saldo negativo per i pazienti in terapia intensiva, significa che si stanno liberando dei letti in un certo senso. Sì, si liberano posti. Tra l'altro leggevo una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso. Noi stiamo sentendo che molti degenti di terapia intensiva delle regioni del nord sono stati trasferiti in Germania. Ad oggi circa 50, leggevo. Caspita. In compenso ci sono, sì sì, in compenso ci sono circa un centinaio di posti in terapia intensiva ancora liberi in altre regioni del nord, solo che a quanto pare tra governatori non si stanno supportando più di tanto. Mi pare che Fontana abbia riportato che ha difficoltà a far trasferire i pazienti dalla Lombardia al Veneto, che sarebbe poche ore di macchina, e pare che ne abbia molti di meno a farli trasferire con gli aerei in Germania. Vabbè, non è bello neanche pensarlo, però posso immaginare che ogni regione voglia in qualche modo, come dire, riservarsi degli slot per le emergenze, per un eventuale picco di ritorno. Sì, sì, no, quello è probabile, però dà anche la misura del fatto che fa un po' sorridere pensare che stiamo criticando giustamente l'Europa per mancanza di solidarietà, ma neanche noi sembriamo tanto capaci di mettere in un piatto comune tutte le risorse. Vabbè, pensiero mio, scusatemi. Invece non ci scusiamo, no, non viene scusato minimamente. Lo dico anche perché la Puglia sta accogliendo gente da altre regioni. So che Emiliano, da quello che dice, ha formato una specie di rete di supporto per le regioni del sud. Speriamo, va, tutto qui. Bella storia. Dai, su. Come al solito, l'Italia in tanti aspetti va a due velocità, e se da una parte la parte d'Italia, quella che dovrebbe essere quella efficiente, in qualche modo ci sta facendo un pochino deludere, dall'altra parte c'è quell'altra metà d'Italia, quella che spesso sale alle onori delle cronache per altri motivi, che invece in qualche modo ci sta facendo ricredere. Ora, senza fare campanilismi, però dai, cerchiamo, come dire, il bicchiere mezzo pieno. Sì, quali sono gli altri motivi? Però devi essere specifico, perché sennò... Beh, per esempio, come dire, si mangia bene, c'è il sole, non c'è la nebbia. Ok. A proposito di lanciafiamme, l'avete giocato lo Space Invaders? Sì, sì, guarda, voti gioco dell'anno senza neanche passare per le votazioni. Cioè, è tipo bello quando spari, bestia. No, ma soprattutto quando muori, che c'è il suo nuovo tormentone, che è quello del buco nero tra le orecchie. Quando a fine anno pubblicheranno la GOTY Edition, ci sarà la mascherina autografata da lui, Assolutamente, io ci tengo. Le mascherine Bunny, quella sì, mascherina da coniglietto Bunny, che sono buone per pulire. Okay, gli ragazzi, occhiali. Io propongo un Kickstarter di Luca Simulation. Io la butto là. Sì, ma secondo me sono già in sviluppo 7-8 versioni, non una sola. No, ma vuoi che quelli che facevano Call of Salvini non ci stanno pensando, dai. Forza, siamo realistici. Senti, ma Lobby, a proposito proprio del nostro Beniamino, di Luca sono finiti tipo in Giappone sulle televisioni giapponesi. Sì, sì, sì, sì, sì, doppiati, sì, anche. Sì, sì, no, doppiato è magnifico. A parte che è stato rilanciato anche da Naomi Campbell, mica schizzi de calce, la scorsa settimana, no? Ma lo voglio in JoJo De Luca, però, proprio come stand lo voglio. Ma è piuttosto dove che è un problema. Secondo voi, sì, io penso che quello che tra di noi conosce meglio lo scenario di di Pozzuoli, sì, quantomeno, perché ci sarà andato qualche sera a mangiare al pub, e credo Lobby. La domanda: ma ci sarà andato ieri con i lanciafiamme a Pozzuoli, De Luca? Sai a cosa mi riferisco? Sì, sì, è il fatto che il tizio in acqua. Ah, no, la festa. La festa per strada. No, del tizio in acqua dopo ci parla Carmine. No, sì, sì, sì. È vero. Mi dimentico. Ma se l'avremmo sentito, dici tu, oppure dici che ho occultato questa cosa? Stavo usando altri metodi di occultamento. No, lui l'avrebbe. L'avrebbe ostentato il fatto che sarebbe andato lì con gli anni sua fianco. Boh. Perché non spieghiamolo per gli amici che ci stanno ascoltando e magari non hanno seguito questa particolare vicenda. E praticamente a Pozzuoli un gruppo di persone ha deciso non solo di fare un assembramento per fare una specie di, come lo possiamo definire, non era un flash mob, era una specie di piccolo raduno all'aperto, erano credo una cinquantina di persone, e qualcuno di loro ha avuto la geniale idea, perché nel XXI secolo abbondante ancora non avete capito che se non vi volete far scoprire quando fate una cosa al di fuori delle regole, non la dovete mettere su Facebook. E invece, pam, puntualmente, il video è finito su Facebook, e adesso la polizia, insomma le forze dell'ordine, stanno indagando su una cinquantina di persone che verranno presumibilmente denunciate. Interrompo, breaking news: un gatto è sgattaiato sul tetto dell'appartamento del palazzo a fianco, quindi Aveva la mascherina, aveva sempre No, so, purtroppo ho visto solo la sagoma del, dal collo in giù, quindi non so. Credo che fosse privo di mascherina e quindi passibile di denuncia. Vabbè. Ah, facci sapere gli sviluppi, Marco. Anzi, fai una cosa, chiama proprio le guardie. Sì, infatti chiama adesso chiama le guardie. Le guardie femminili. Anche perché non credo che abbia, insomma, l'autorizzazione o comunque l'autocertificazione. Sì. Poi più recente risale a quando? Cosa? Come? A una settimana fa. L'autocertificazione più recente a qual è la quinta, la sesta edizione? Dovrebbe essere il 26, quella del 26. Ah, okay. Ma vedrai che insomma in settimana essere... comunicheranno il, la proroga delle, del blocco e quindi uscirà la nuova versione del decreto, di conseguenza la nuova versione della, dell'autocertificazione. Tra l'altro leggevo che in Italia non si trovano stampanti e non si trovano toner perché la gente è impazzita, si è tutti quanti a comprare stampanti. Già era un mercato che era in flessione da anni e quindi probabilmente se ne producevano molte meno di prima. Adesso la gente non le trova. Ma facciamo ancora una volta runtime per il sociale. Non è obbligatorio stamparvi l'autocertificazione quando uscite di casa. Se vi fermano per un accertamento, ve la forniscono le forze dell'ordine. Lo vogliamo dire? Facciamo spendere soldi a loro, visto sì, che ce ne hanno tanti, vero? Cioè, vai, no, ma se no uno potrebbe pensare che è la lobby delle stampanti, quindi HP, Epson e Canon che hanno messo in giro il virus. La conosco, lobby stampanti, la conosco. Sì. Lobby stampanti. Personale è una cugina. No, io più che altro pensavo che fosse un infatti scusate di... c'è anche il Covid compatibile che costa meno ma non ti fa morire. Io pensavo fosse un tentativo di finanziare un mercato in crisi, quello del quello delle autocertificazioni, cioè un primo incentivo l'hanno dato al mercato delle stampanti e del toner rigenerato, poi verranno quello degli avvocati. Sì, sicuramente. Io non immagino, io non so se io me la immagino così perché non, secondo me non può essere altrimenti, cioè che quando tutto si ferma ci sarà una sorta di colpo di spugna, perché se i tribunali dovessero elaborare tutte le denunce che sono arrivate in pochi giorni, in poche settimane, ci vorrebbe, non lo so, delle strutture apposta, e già abbiamo arretrati di processi di anni, figuriamoci se devono cominciare a mettere in coda pure questi, campacavallo. Tanto non c'è prescrizione, se la possono prendere con calma. Sì, no, per questo sì, possono passare, cioè, non, magari non li ingabbieranno, no, perché non è improbabile, però le sanzioni gli arriveranno anche prima. Diciamo che si potrebbe risanare il debito causato dal Covid, si potrebbe appianare quasi il PIL se continuiamo così, ma comunque. Sì, facendo affidamento sul buon senso degli italiani, che non mi pare mai una buona idea. Però io ho trovato, che mi suggerisce Google, che ovviamente non ci sta ascoltare, laureati in Veders, non so se conoscete. No? No. Questo gioco, edizione di Covid-19, incendi ai neolaureati e salva la Campania. E c'è un... Ma ne abbiamo appena parlato. Ma davvero? Ma io sto guardando. Lei è distratto. Ah, vabbè, lei è attento più su altre cose, vabbè. È vero. Ma invece a questo punto andiamo ad Otranto, Carmine, perché chiaramente oggi girava un video che in chat è difficile farvi rimbalzare, però c'era questo tizio di cui abbiamo già parlato, raccontaci tu. Sì, in pratica un simpatico cittadino di Otranto ha deciso di farsi un giro in bicicletta e, scorgendo all'orizzonte una pattuglia di vigili urbani paletta muniti, ha deciso bene di scansarli lanciandosi in acqua con la bicicletta, arrivando anche, devo dire, abbastanza al largo e rimanendo lì come a dire: beh, dai, e mo venitemi a prendere, tanto sto in acqua. Devo dire che i vigili hanno avuto la pazienza di rimanere sul bagnasciugato ad aspettarlo, perché giustamente hanno pensato: è più facile che gli venga freddo a lui che non a noi, visto che è immerso fino alla cintola con la bicicletta nel mare. Hanno aspettato che tornasse a riva e se lo sono allegramente tradotto in commissariato. Sono bevuto, cioè. Posso dire che avete bevuto. Il dialogo tra le parti è stato bellissimo, perché a un certo punto lui, che dall'acqua, urlava: no, non vengo, io non ho fatto niente, e loro come la mamma con la ciabatta in mano pronta: vieni, vieni, che non ti faccio niente. Con gli occhi iniettati di rabbia. No, ma veramente, io, come dicevo in chat poi tra di noi, è già tanto che non abbia anche finto di essere un polpo e di venire attaccato a uno scoglio, perché veramente aveva un che di surreale tutta la scena, veramente meravigliosa. Ma infatti ci mancava che il vigile si sta passando per ogni piccola se la bevesse tipo Ciringhito, però vabbè. Sì, ma sì, da un po'. Sono un paio di giorni che ha dato sta notizia. Gli hanno fatto due tamponi di fila. Ma scusa, di chi parlate? Di Zingaretti. Non Montalbano, l'altro. Il fratello di Montalbano. Il fratello di Montalbano. quello che monta il bagno, sì, è stato presumo dichiarato guarito o comunque sia in remissione, ha fatto due tamponi. Siamo contenti, dai, perché comunque sia, insomma, non è mai bello parlare delle disgrazie quando si hanno si ha a che fare con queste malattie. Quando si ha la notizia di qualcuno che guarisce, ne siamo contenti. Sì, a meno che tu non sia Lanza e non abbia un titolista molto spiritoso come quello che inserì la notizia della positività di Bertolaso titolando Bertolaso positivo al Covid-19 e la riga successiva OMS 2 punti per l'Italia c'è speranza. Esatto. Vabbè ragazzi, ma potremmo anche aprire una parentesi su quello che ha scritto Travaglio subito dopo, che è stato di un cattivo gusto. Ora, l'opinione su Bertolaso può essere quella che è, però essere così fuori luogo e di cattivo gusto, finché lo fanno libero il giornale in qualche modo me l'aspetto. Se lo fa comunque una persona dotata di raziocinio come dovrebbe essere Travaglio, mi fa un po' girare le scatole. E vabbè, ma credo che lo abbia lasciato sul comodino qualche tempo fa, raziocinio, qualche anno fa. E praticamente il Travaglio ha scritto una cosa del tipo doveva insomma, l'editoriale diceva doveva costruire un ospedale e occupa solo un letto. Sì, doveva moltiplicare i costi letto e ne ha occupato uno. Vabbè. Comunque, invece, a proposito di guarigioni, anche il principe Carlo nel Regno Unito è stato dichiarato guarito, però non ho ben capito lì la situazione, perché sembra, non so se ne hanno parlato ieri nel programma Simone e Michela col collegamento da UK, però sembra che lì i tempi, i giorni utilizzati per dichiarare, diciamo, la fine dell'infezione, sì, eccetera, fossero solo 7. Sì, è una sola settimana, confermo. Ho una ex compagna di scuola che fa il medico in Inghilterra, ci ha detto la stessa cosa, che loro li stanno considerando guariti. In realtà è 2 tamponi a distanza di 4 giorni nell'arco di una settimana, cioè non è proprio lineare, però dopo una settimana di tampone negativo li dichiarano guariti. E non sappiamo, qui noi perlomeno da profani siamo ancora a domandarci se forse non sono troppo pochi 14, quindi vabbè. Realtà leggevo ora la parentesi scientifica, leggevo dei paper che diceva, c'era uno che ha fatto una review un pochino di tutti questi andamenti, di tutti degli studi che hanno fatto di recente, diceva che una buona stima è sui, cioè circa il 97% delle persone dopo 14 giorni già non presenta più sintomi. Poi c'è solo una percentuale molto accettabile che può ripresentare sintomi dopo i 14 giorni. Però cioè, comunque degli altri studi sto vedendo che comunque anche se guarisce e risulti negativo, ciao piccola, la virulenza, sì, cioè può essere comunque un vettore ancora del virus per qualche giornino, settimana, anche dopo i fatti 10-14 giorni eccetera eccetera risulti negativo. Comunque mo stanno spuntando articoli su articoli ogni giorno, è giustamente una cosa che stanno studiando adesso, quindi soffre un pochino di recentismo mo di ste cose, però comunque beh, diciamo che tutti comunque, i paper che escono, tutti gli studi eccetera, riescono a contraddirsi con una certa nonchalance. Io non so più a cosa dare più credito. È una questione di contraddizione, è una questione che comunque sono vari studi fatti su altri campioni, magari con altri metodi, poi con il tempo si vanno un pochino a omogenizzare. Poi col tempo per fortuna ci sono le cosiddette meta-analisi o review che prendono un pochino tutti i dati aggregati, i vari studi, e fanno un bilancio finale. Sì, no, meno male, cioè non è tanto questione di contraddizione, è una cosa che si sta studiando adesso, quindi bisogna vedere anche dei vari campioni che utilizzano, quanti sono ampi o meno. No, ma infatti la contraddizione è per l'uomo della strada, che ovviamente non ha le cognizioni per interpretare soprattutto poi i riassunti che vengono ribattuti dai siti di news, sì, e non ci capisce niente. Si capisce una mazza, dovrebbe essere almeno i divulgatori come noi siamo dei divulgatori, vero? No? Sì, di cialtroneria, ma sì. Assolutamente. Sempre divulgatori siamo. Certo. Comunque c'è anche la notizia che ci sarebbe anche il principe consorte, il principe Filippo infetto, ma probabilmente tipo addirittura defunto. Che dorme in un'altra ala del castello? No, dal fatto che da quello che sta girando in giro dorme in una scatola di legno di 2 metri per 1. Ah. Pare sì, no, cioè sta girando questa voce. Inquietantissimo. Lui è morto da una decina d'anni. Madonna, c'ha una faccia. No, ma io ho questa personalissima teoria che in realtà la regina è un leech e lui è un neomorto che lei controlla con il con la forza di volontà. Cioè non ho un'altra spiegazione. Comunque se il flatterio veramente... dove ce l'ha la regina? E secondo te all'interno di Buckingham Palace, la stanza del tesoro, sì, che ci tengono, dai. La corona? No, assolutamente. Guarda, l'alternativa che ci ponevamo l'altro giorno è che praticamente la regina fosse possa essere Dorian Gray e il suo ritratto è Carlo. Non mi pare ancora abbastanza invecchiato. Vabbè. Oppure potrebbe essere una cosa, cioè utilizza i parenti prossimi per assorbirne l'energia vitale, un altro tipo di leech. Sì, del resto se vedete anche i nipoti, soprattutto William, il primogenito, si sta stempiando in maniera drammatica. No, è che si sta stempiando, è calvo come una... calvo. E non lo vuole ammettere, sì, capisco. E non lo vuole ammettere. La calvizia va indossata con nonchalance, secondo me. Qua, insomma, più di qualcuno mi può dare manforte. Io no. No, no, qui in questa chat, in questo programma probabilmente no, però se ci fossero, non so, il buon Pizzi, il buon Alex e altri, in qualche modo, diciamo, condividiamo una pettinatura abbastanza simile, no, un po' per scelta, Alex, un po' per necessità. Alex c'ha la riga in mezzo larga, come diceva Bissio, dai. Bella, bella questa, sempre... Ragazzi, ovvio, invece, in Europa sta succedendo un casino. Quando mai? Quando mai? Ma qui i casini si sommano uno sull'altro con questo, attenzione, che non so se immobilismo, attendismo, incapacità. Per dire che il Bangladesh, attenzione, Bangladesh sta ritirando la tenda. E la tenda che utilizza per coprire le verdure, che adesso non ci sono perché ovviamente in periodo di crisi non può esporre, però la sta ritirando, quindi c'è questa novità. Poi vi aggiornerò se ci sono nuove condizioni. Qui comunque il tempo sta peggiorando, è molto grigio e potrebbe esserci pioggia. Adesso speriamo che non interrompino la vendita a causa della pioggia. Beh, la temperatura è scesa, io ho acceso anche il riscaldamento oggi, adesso ho detto. Se ieri faceva caldo, io sono uscito, pensate, ovviamente sono andato a fare i cazzi miei, sono uscito e faceva caldo, cioè invece oggi sono uscito e faceva freddo. Sei uscito due giorni di fila, Gualdi? Sono uscito due volte di seguito per andare in farmacia, quindi è una cosa molto bella. Ok, molto Carmine, bello. Verifichiamo se ci sono gli estremi per la delazione qui, Assolutamente, tra l'altro neanche in forma anonima, vogliamo che tu lo sappia che siamo stati noi, Marco. Ma io volevo intanto dire, Alex in chat ci ha detto che ovviamente puntualizza giustamente, lui non è calvo, ha uno spline, scusate. E poi salutiamo Alessandro Gheda, ha detto anche Zaganator, che dice che è in fila al Famila, quindi insomma le file davanti ai supermercati non si smentiscono. Guardi, tu ci vai a fare la spesa? No, non ci vado. Che persona triste. Non mi è concesso. Ti togli divertimenti in epoca coronavirus, guarda, te lo devo proprio dire. In questo momento, guarda, mi sono infognato nella visione globale di tutto The Shield. Mamma che comincia mia. A diventare bello, sempre bello ignorante, insomma, tutte le sue sette stagioni, sono arrivato all'ultima puntata della quarta, la devo ancora finire, quindi... The Shield è la trasformazione di un attore, perché se voi ricordate Michael Chiklis, prima faceva quell'altro telefilm, diciamo, di poliziesco, Commissario Scali, quello proprio light, diciamo, il Commissario Scali, sì. Non riesco a togliermelo dalla testa, capito? È un trauma di adolescenza quel telefilm. E tu... No, ma ha fatto anche un telefilm in cui facevano tipo i Fantastici 4. Sì, Not an Ordinary Family. E poi gli hanno fatto fare la cosa nel film più brutto dell'universo sui Fantastici 4. No, lui ha fatto Ben Grimm nei primi due, quello brutto, sì, ma non quello, esatto, bruttissimo. Quello brutto, Secondo me. Secondo me quei due, compreso Rise of the Silver Surfer, riescono a essere, nel loro essere campi, peggiore di quel dell'ultimo. Madonna mia, vabbè. Dici? Quello col Dottor Destino di Stagnola, perlomeno c'ha degli effetti visibili. Ma quei due. Brr. E anche lì il Dottor Destino dei primi due film è il chirurgo plastico di Nip and Tuck. Cioè, queste cose ti danno disordine. Assolutamente. Sì, anche a me. Ma soprattutto io vorrei ricordare che nei primi due film la torcia umana era Capitan America. Sì, infatti, sì. Sì, sì. Tra l'altro riusciva a fare il cazzone, scusate il termine, bene quanto riesce a fare l'uomo maturo, posato e consapevole in Capitano. Sono passati anche 15 anni nel frattempo. No, il problema è che c'è un'espressione sola, la modula Cioè, attenzione, breaking news, questa è grossa perché la solita macchina contromano sul marciapiede davanti a Bangladesh, è uscito un tizio con un cappuccio, mascherina e due stampelle. Adesso vediamo che cosa sta succedendo. Si avvicina passo passo, stampella dopo stampella, verso l'area d'ingresso. Ecco, si apre la porta, non automaticamente, ma probabilmente un Bangladesh gli ha aperto la porta ed è entrato dentro. Vi interromperò di nuovo per sapere che cosa ha comprato. Siamo ferventi di curiosità. Comunque, torniamo al Busillis. L'Europa si sta dimostrando inerme anche in queste ore, quando di fatto, diciamolo come dire prosaicamente, ma poi questo è successo, in Ungheria si sta compiendo un golpe bianco. Chi lo vuole spiegare? Un golpe bianco a effetto prolungato, tra l'altro, perché Orban le picconate alla democrazia parlamentare ha iniziato a darle diverso tempo fa. Questa probabilmente dal 2013 ha fatto la riforma costituzionale. Dal 2013 ha fatto la riforma costituzionale. No, ma tra loro e la Polonia non so chi sta combinato peggio in questo momento. C'è da dire la Turchia se non fosse che non è Europa. Ma la cosa che è veramente preoccupante è che è riuscito a farsi dare questi poteri sconfinati dal Parlamento senza dare una data di scadenza. Cioè, lui teoricamente può dire: no, per me è da qui a 3 anni. L'emergenza coronavirus non è finita perché lo dico io. Tappato. Ragazzi, ma voi siete coscienti che il coronavirus non andrà mai via? Cioè, sì. Invece me ne sono immaginata più così. Diventerà un virus come l'influenza, ovviamente, perché quando usciranno vaccini e come cacchio si chiamano e farmaci, diventerà tutta più gestibile la cosa. E solo che ovviamente, essendo diciamo una cosa che diventerà normale, per Orban sarà tranquillamente diciamo estendibile all'infinito questa cosa, perché fino a che non va via il Covid-19. Pensate se inventano un vaccino che tu sarà costretto a non far filtrare la notizia in tutta l'Ungheria. Cioè, no, ma non ce n'è bisogno, perché essendo un virus muta, quindi ogni anno probabilmente dovrà essere fatto un nuovo vaccino. Cioè, esiste, è come dire, cioè, non lo so, c'è cioè, stato d'emergenza fino a che ci sono le piogge. Ok. È così, cioè, diventa una cosa normale. Quindi... Oppure fino a quando mia moglie non mi darà ragione. Pensa tu, cioè proprio. Potrebbe morire la moglie, quindi... Però, invece me la so immaginato più così, tipo grande, Orban assume pieni poteri per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Da Orban, che cos'è il coronavirus? No, ma si immagina più una cosa del genere. Sì, sì, perché sai, il blocco di Visegrad ce l'hanno sti atteggiamenti quasi ex blocco sovietico, di dire no, noi siamo forti e virili, ma quale virus? Vodka, sudore e via. Come ha detto, attenzione, è uscito l'uomo con le stampelle, ha una borsa di plastica rossa e adesso sta aprendo il lato passeggero per buttare probabilmente la borsa. Esatto, mentre c'è una signora con due cani che entra al suo posto, quindi un cambio in questo momento, esce l'uomo con le stampelle, entra la donna con i due cani, però probabilmente il fatto che ci siano due cani sta creando dei problemi. Non so se sono ben accetti questi due cani, io francamente non li farei entrare, perché ma io non farei entrare la proprietaria, farei entrare i cani quasi, cioè così, a buttare così, e ha desistito, la signora se ne sta andando. Colpo di scena, si allontana dalla porta. Comunque a me pare di capire che sto negozio di Bangla è il più frequentato di Monterosondo, praticamente. Penso che sia l'unico che non c'ha file, per cui cioè, si infilano tutti praticamente. Comunque c'è un bambino, attenzione. Scusa, però hai creato un paradosso, è quasi un ossimoro. Ci si infilano tutti ma non c'ha file. Perché una volta, è uscito un bambino, però adesso c'è anche la madre. Attenzione, che si è incrociato a distanza non di sicurezza con una passante, quindi che si sta a sua volta infilando dentro il mini market, quindi in questo momento di nuovo il mini market ha una persona al suo interno, quindi c'è stato un batti e ribatti, un'azione molto concitata, però alla fine abbiamo una signora dentro il mini market. Te ne voglio studio. Grazie Gualdi, certo. Riprendiamo la linea dallo studio e riflettiamo su un fatto. Quindi Orban è riuscito a fare quello che a Salvini non è riuscito neanche lontanamente quest'estate, sia perché Salvini ha fatto in maniera assolutamente ubriacamente molesta e pecoreccia, sia perché ci auguriamo insomma che il nostro Parlamento sia leggermente meno corrompibile di quello ungherese. Che dite? Ma Salvini non aveva neanche i numeri per fare una roba del genere in Parlamento. Alla fine, se ci pensate, lui era al governo con i 5 Stelle col 17%. Lui c'è ancora ufficialmente il 17%. Sì, per diciamo, quello è il dato elettorale, però diciamo, i sondaggi lo davano al 34%, all'apice della sua follia. Proprio l'apice era, sì. Sì, sì, ma in Parlamento non è che ti votano gli elettori che vorrebbero certo. votarti, ti votano quelli che stanno lì. Se lo doveva aspettare, che, voglio dire, citando Guzzanti, è come il missile, no? Gira, gira, gira e poi dove va? Fatto sta, ragazzi, comunque, che mentre lui in qualche modo autoerode, autofagocita il suo consenso, perché ovviamente quando raggiungi, come dire, l'apice, quando raggiungi lo zenith, poi puoi solo cominciare a scendere, no? Credo che sia fisiologico. Nel frattempo la sua sodale il picco ha raggiunto ha raggiunto il picco di virulenza anche lui. Esatto. La sodale, che ovviamente è stata zitta e buona fino a quando è stato opportuno, grazie alle strategie di Bannon, perché poi di fatto lei sta godendo di tutto quello che è l'influsso di questo, chiamiamolo, genio nel suo ambito, che è Steve Bannon, sta capitalizzando, sta pompando praticamente, lo sta quasi per sverniciare. In questi giorni se ne insiste con questa storia di dare subito 1000 euro a tutte le persone che hanno bisogno. Così, no, senza discrimine, senza controllare, 1000 euro sul conto, subito, boom. Oh, dai che mi compro il MacBook Mini. Vai, forza. Figata. Io ho bisogno. Tranquillamente. Vai, forza. Cosa ci fareste con 1000 euro di Giorgia se va arrivasse? Non ti voterò comunque, cioè, tanto mi riprendo 1000 euro. Sì, dai, dai, problema. Te dacceli, ma non è che ti votiamo, Ragazzi, lanciamo anche agli amici in chat questo sondaggio. Con i 1000 euro di Giorgia, che ci fareste? Ditemelo prima voi. Con i 1000 euro? Sì, vai, Carmine. No, io francamente c'ho da cambiarmi il portatile. Quasi qua, cioè, mi serve per lavorare, per me è un bene di prima necessità. Gli stai dando quasi un senso credibile, se mi stai deludendo. Assolutamente. No, ma figuratevi, cioè, a parte che se veramente 1000 euro, vi dico la verità, io potevo avere accesso ai contributi per le partite IVA, anche se ho anche un contratto da dipendente, e ho preferito non farlo, perché penso serva a gente che magari sta più inguaiata di me. Ma poi soprattutto, per quanto io sia molto favorevole alla tutela finanziaria delle fasce più deboli, 1000 euro a persona, a parte che è una cifra campata assolutamente per aria, sì. Ma secondariamente, che cacchio poi vuol dire? Vabbè, se uno poi non ne ha diritto, gli richiediamo indietro dopo. Ma sì, il concetto è quello, ma poi probabilmente 1000 euro si può ridimensionare al nucleo familiare. Scusate, tra l'altro, Giorgia, ascoltami, cioè abbiamo già problemi a farci dare indietro i soldi delle bollette e degli affitti della roba occupata da Casa Pound. Ma c'è pure i problemi dei 49 milioni della Lega. Della Lega, figurati. Non ci siamo dimenticati quelli. No, noi non ci ricordiamo, però ricordiamoci che loro purtroppo hanno fatto una transazione, quindi c'è questo piano di rientro a 82 anni, non ci possiamo fare niente. È una questione conclusa. Sì, sì, Salvini, parlando degli 80 centesimi a persona, ha detto tipo un bonus, sta parlando per la regione di stanziare un bonus in Lombardia di 60 milioni per gli affitti. Visto che più o meno sono, quanti sono in Lombardia? 6 milioni, una cosa del genere, sono tipo 6 euro ciascuno, no? Sì. Alla fine. Vabbè, ma insomma, i numeri a caso, senza continuità. Che tra l'altro domani lui, la Pariolina e Tajani si incontrano. Non so che cacchio fanno, ma vogliono incontrare Conte. Che cazzo vanno a fa? Ma è bellissimo, ragazzi, che nessuno si sofferma sul fatto di come ormai Tajani abbia a tutti gli effetti, come dire, sostituito Berlusconi, che sta lì dalla figlia. Non si... Ovviamente lascia che nei suoi TG di famiglia si parli di lui 5 minuti a edizione. Però per il resto ho sparito dai radar, eh? Beh, sì. Vorrei vedere. Ma un po' scitti casa, dove va? Rischio, cioè, infatti. Eppure domani vanno a Palazzo Chigi, dicono, boh, accreditare subito 1000 euro a chi ne fa richieste, infatti. Mostra sì, sì. I parlamentari primi tra tutti. Ma figurati. Vabbè, da. Lobby, tu che ci farai con questi 1000 euro che in questi giorni ti troverai nel conto? Oh, scusate, che la tipa, quella lì che sta molto simpatica a Walter Vannini, la Paola Pisano, il ministro per l'innovazione, ha messo su una task force di 74 esperti, una task force tecnologica per l'emergenza, di cui si parla pure dell'app per tracciare le persone. Bravo, bravo, complimenti. Vedremo. Poi, tra l'altro, vorrei sapere, ma l'elenco di 74 esperti, ma si può avere? Perché io anch'io lo voglio, lo voglio. Ragazzi, vi spiego, io non voglio fare dietrologie, perché non sono manco il tipo. Tempo fa la regione Puglia creò una task force per la cyber security. Vabbè, boh, ok, è giusto, è giustificato. Venne fuori l'elenco delle persone che ne facevano parte. Ora, io non vorrei dire, c'erano due professori di informatica over 70 che vi garantisco, se li andate a chiedere come si fa il subnetting, può essere un problema. Dice, professore, come la facciamo questa, cioè, in Cobol? Cazzo, esatto, Cobol, esatto, siamo a quei livelli lì. Io ora c'ho paura di chi possono aver messo a far gestire le emergenze in questa maniera, perché sai com'è, insomma, bisognerebbe anche capire che livello di competenza c'hanno. Ma vuoi che un manager di Amazon per puro spirito di patria non verrà in soccorso gratuitamente a patto di cedere solo tutti i dati? Beh, hai voglia. Non ho visto che è nemmeno successo in Italia una cosa del genere. No, ma è fatto. Mi pare che solo quest'anno siamo alla seconda. Pensa, se avessimo accettato senza fiatare Watson Health di IBM ai tempi, a quest'ora avremmo già tutto pronto. Colpa nostra. Ah, colpa nostra, sempre colpa nostra. Che palle, sta privacy che rompe le palle. Ma voglio far sapere tutti i cazzi miei a tutti. Stava meglio quando non c'era la privacy. Ma infatti è tutto un problema fonetico. Dovremmo cominciare a dire privaci. Volete fare bene, ma boh. Non so, io sono molto perplesso, perché il sistema per farle bene, garantire la privacy delle persone, esiste, è voglia. Il problema è che porta via tempo, risorse che costano. Il solito discorso. Vabbè, questo poi, come dire, andiamo come al solito a battere dove, con la lingua dove duole il dente. Lo sappiamo che in Italia le cose fatte bene e nei modi giusti proprio non sono ponderate, non sono assolutamente non ce le abbiamo. Come sei disfattista, come sei troppo italiano, questo è il problema. Sono troppo, sono sì, ma Stanis me lo dice sempre. Lobby, dai, su, poche chiacchiere, cosa ci fai con 1.000 euro? Guarda che forse dopo fai un banking, perché forse già ce li hai. 1.000 euro, chi le richiede? La pariolina. Ma 1.000 euro, io ci farei giusto un migliaio, più di un migliaio di volantini, sempre per della pariolina. Beh, un milionaio penso che ne fai con 1.000 euro. Sì. Non ti preoccupare, no, li faccio fare tipo una stampante con grazie, però con la sua faccia non ritoccata, perché di solito girano nei manifesti lei praticamente piallata, se ci fate caso, dove nei manifesti praticamente magicamente sono scomparse le occhiaie, smarmellata, un po' smarmellata, sì. Diciamo che c'è un abuso di filtri Instagram che non stiamo qui. No, quello è proprio Photoshop avanzato, perché quando parti che sei Smigol non è facile, eh? Oh cazzo, c'è speranza anche per me, eh? Il ministro? Mi faccio ritoccare, no, madonna mia, speriamo di no. Che ne so. Vabbè, comunque per me è sempre stato il massimo quando è uscita la lista dei ministri attuali. Per ogni dicastero c'era il cognome giusto. Io non so come abbiamo fatto. Sì, è un casting di altissimo livello, in effetti. Degno del Grande Fratello. Tabu. Povero Speranza, tra l'altro. Ma poi io ci sono volte che guardo Conte in televisione e mi chiedo, ma quanto te ne stai pentendo di aver accettato 2 anni e mezzo fa sta cazzo di telefonata? Ma non potevi, che so, premere ignora, mandare un messaggio, sono occupato, ti richiamo, quelli preimpostati, e poi bloccare il numero? Ma guarda che, a prescindere poi dal momento bruttissimo su cui ora lui deve per forza, col cui deve confrontarsi, rispetto al primo governo Conte, lui adesso sta avendo un rilancio e sta avendo un, come dire, una forma di riscatto enorme. Prima era un pezzo di cartone sagomato a, voglio dire, proprio agli ordini di Salvini prima ancora che di Di Maio. Adesso bene o male una sua identità l'ha trovata. Poi sì, nessuno si aspetta che diventi un Kissinger o un, non so, uno statista ad alto livello. Però forse tra tutto quello che ci poteva capitare ci è andata anche meno peggio del possibile. Anche sì, meglio di quanto pensavamo possibile. E ringraziamo sempre Salvini, che se non fosse stato per colpa sua ora avremmo Salvini, quindi. Esatto. Per merito suo, Madonna, no? Per mia, colpa sua. Ma voi immaginate? Per merito suo, sì, merito. Ma che disastro, io. Sì. No, ma vabbè. Può darsi anche che alcune misure le avrebbe introdotte prima, però comunque non, il come, questo non lo so. Guarda, sai perché sono scettico? Perché se, mettiamola così, se il problema del Covid fosse esploso al centro-sud, avrebbe chiuso tutto, sparato il napalm sulle città senza problemi. Ma è successo in Lombardia. Brutta cosa. Quindi sarebbe stato un enorme disastro, perché non avrebbe chiuso niente. C'è un po' di paura, Io comunque... Chi lo vota su dopo? Comunque, cioè, piuttosto che cercare di immaginare quale sarebbe stata la situazione attuale con lui al governo, preferisco, cioè, non lo so, prendere, leggere una pagina a caso del Necronomicon, cioè, non lo so, secondo me è più salutare. Ah, sì. Però vabbè. Comunque, vabbè. Lobby, io volevo una tua consulenza professionale. Fai conto che mi sono sdraiato sul divanetto. Ok, che ti devo far firmare anche te la protezione dei dati personali, l'informativa. Assolutamente. Sì. Vabbè. Ieri sono andato a fare un po' di spese dopo 7-8 giorni che non uscivo di casa. E siccome dovevo andare in un grande magazzino che vende prevalentemente detersivi, cose del genere, a 300-350 metri da casa, ci sono andato a piedi. Il disagio strano, latente, che ho provato nell'andare e nel tornare, non l'ho mai provato prima. Mi sentivo quasi stranito a essere uscito di casa. Era un misto tra paura, colpa, smarrimento. Non te lo so spiegare. Me lo spieghi tu? In realtà dovrei fare più delle domande per farlo spiegare più da te, perché comunque è una cosa soggettiva, quindi devo capire tu come cacchio funzioni. E da quanto tempo è che non uscivi? Una settimana, 8 giorni. Una settimana, 8 giorni. Ma proprio appena sei uscito te lo sei portato, cioè ti sei portato questa sensazione di, come l'hai detto, di colpa, di disagio, di morte interiore. Ma era sottilissima, non era, diciamo, come dire, preponderante. Era quel substrato irrazionale, mentre c'erano pensieri razionali nella mia testa mentre facevo questo breve tragitto a piedi. Però se mi fermavo un attimo a concentrarmi sulle sensazioni, c'era questo disagio. Ok, che cos'era che ti passava per la mente, per di preciso? Ti ripeto, cos'è questa sensazione di stare facendo qualcosa che potesse essere all'insieme pericolosa, sbagliata, non perché stessi andando a fare qualcosa di, diciamo, di non comprensivo nel decreto, non è che stavo andando a spasso, stavo andando a fare le compere in quantità sufficiente per 2 settimane, quindi insomma tutto nella norma. Però a furia di ricevere informazioni contraddittorie, a furia di ricevere informazioni che comunque ti instillano un minimo di paranoia in testa, già solo il fatto che non avevo la mascherina, non avevo protezioni, non lo so, tutta una serie di cose messe l'una sull'altra mi hanno fatto sentire così. Guarda, l'hai detto stesso tu, visto che comunque vieni inondato comunque da informazioni contrastanti e te le vivi con un certo peso sulle spalle, ti sembrava di fare davvero qualcosa di sbagliato. Ma poi quando sei tornato a casa sei stato tranquillo oppure? Ma io sono stato tranquillo in generale. Ripeto, sì, lo so, però comunque questo retrogusto di morte interiore, diciamo, esatto. Cioè, avuto giusto durante il viaggio oppure quando sei tornato e rimasto? No, tornato, ci ho solo riflettuto un po' sopra, però poi insomma sono ritornato nella mia comfort zone e via. Ok, vabbè, già ti stai, tra virgolette, guarendo da solo, nel senso che ci hai ragionato e ci hai dato un peso a ste cose. Relativo, quello che è. In ogni caso è sempre frutto di questa situazione, che ripeto, è una cosa inedita per tutti. Quindi ognuno, per ognuno è un cazzo diverso sta situazione. Quindi attenzione, bisogna vedere più. Interrompo, il gatto si è accovacciata sotto un torrino del tetto di fronte a casa. Quindi sta lì tranquillo, però lo vedo un po' spaventato. Cioè tu da casa tua vedi il gatto all'Eur? E forse perché è uscito e senza autorizzazione si sente un po' atterrito, secondo me. No, tra l'altro anche Alex Raccuglia in chat dice: ma lo sai che anch'io oggi sono uscito e mi sono sentito sbagliato. Quindi vedi che, come dire. Ma sì, beh, infatti dovremmo vedere quando riprenderemo la vita normale. Il problema è se sta cosa si cronicizza o meno. Lì è più la prova del 9. Se si cronicizza sta cosa che permane per un po', e cazzo, ha fatto un effetto particolare sta cosa, quindi bisogna stare attento più là. Però secondo me può darsi perché è semplicemente una cosa una cosa temporanea. Ma infatti, guarda, io questa domanda mi sono posto: quanto possiamo andare avanti in questa condizione di segregazione senza avere poi dei danni a medio termine? Il fatto è, meno si sta meglio è, ripeto. Partiamo però dal presupposto che tutti hanno danni a medio termine, a prescindere. Infatti, a prescindere qualcosina. Anche extra, cioè, clausura, insomma, quindi. Quindi, no, più si va avanti peggio è, giustamente, però per fortuna rispetto ad altre situazioni successe in passato, comunque del modo di passarlo il tempo, tra virgolette, ce l'abbiamo, di interagire con gli altri, perché quanti di noi si è fatto già la domanda se sta cosa fosse accaduta 20 anni fa, senza tutte sti iperconnessioni e sta roba, come sarebbe, pure a livello di informazioni che ti arrivavano o meno, di come informarsi, se guarda, anche quello è importante, sia le informazioni che arrivano, già il so che arrivano delle informazioni non è scontato, perché può darsi che, come è successo in altri stati, tipo in Africa, tipo del botto così, devi stare chiuso, ma perché, ma come, zitta, gli davano un tinello per cacare e basta, tanto sanno non ne uscivi da lì, sicuramente i livelli di stress aumentano talmente tanto che poi dei tassi di addirittura di disturbo post-traumatico da stress ne emergevano dopo, cioè comunque si sincronicizzavano delle situazioni che potevano essere solo normali, controllate, oppure solo temporanee. Giustamente, più è lunga sta cosa, più è difficile poi che più aumenta la probabilità di sviluppare un bel po' di ansia, di depressione o di altre cose che possono permanere col tempo. Ma stiamo diventando troppo seri, dai. C'hai ragione, sì, no, ma tanto io riflettevo e chiosavo sul fatto che noi come tipo di generazione, anche come tipo di utenti, mettiamola così, in quanto a sociopatia e anomalie varie non siamo secondi a nessuno, quindi a noi ci rimbalza questa cosa. Prendi Gualdi. No, Gualdi, come ne uscirai da sta situazione, se mai se ne uscirà? Dai, parlami un po', parlami delle tue sensazioni, delle tue... Ma io penso che per me è normale, cioè tranquillo. Ah, ecco. Ok. Oggi sono uscito davanti ai carabinieri, vabbè, se mi fermano c'ho il foglietto in tasca che mi porta dietro, che mi frega. Ma col gingillo di fuori? Ovvio, perché così si distraggono e non capiscono, capito? Due informazioni così non riescono a collegarle e vanno in cortocircuito e non ti fermano, quindi c'è il trucco sempre. Vedi, ne sei sempre uno, mi sono allontanato 10 minuti per cambiare mio figlio e state a parlare di gente che va in giro col pisello di fuori. Gente, di Gualdi. Di Marco che va in giro col pisello di fuori. Esatto. No, rigiravo la domanda anche a te. Secondo te, Carmine, una tua stima, quando e come finirà sta roba, tutta sta situazione, si cercherà di ritornare al normale? Normalità, quanto sarai senso, normale, no. Tu, cioè come te la vivrai? Io sono anormale di mio. Come ne uscirai secondo te? Ah, io sono anormale di mio, quindi. Vabbè, sì, dicono come a pelle, come sentirai di aver vissuto, cosa ti porterà da questa esperienza, come sentirai che vivrai il cercare di ritornare alla routine di un tempo? No, vabbè, ragazzi, io innanzitutto penso di essermi completamente disabituato all'idea di lavorare in ufficio, ma proprio in termini assoluti in questo momento. No, ma al di là di questo, io già sono, come vi può confermare Simone, abbastanza col culo pesante di mio, cioè per me andare in giro, a meno che non sia roba che mi interessa, più delle volte è un peso, però in realtà devo dire mi sta mancando, cioè l'averlo come negazione esplicita, cioè non è che non sei tu che vuoi andare in giro, cioè, non puoi, la possibilità di avere la scelta di dire ma no, non mi va, cioè. Invece quando si è costretto, quando cioè, la soluzione è solo quella, sono sempre cazzi, vabbè, questo. No, sapete in realtà che cosa mi sta spaventando? Qua forse mi puoi venire in aiuto tu, date le tue qualifiche professionali. Io ne sono uscito, per quanto se ne possa uscire, io ho sofferto per diverso tempo di attacchi di panico. Io ho paura di ricominciare ad averli quando ricomincerò ad andare in giro. Ma seriamente. Anche tu. Sì, qua sì, ci vuole il consulto privato, Assolutamente. No, poi stabiliamo una tariffa forfettaria. Quindi fondamentalmente tu hai paura di avere paura, e questo è già brutto. No, guarda che l'attacco di panico di sì, base nasce quello per quello, esatto. Per quello. Per quindi i prodromi ci sono tutti, però in realtà No, vabbè, in realtà questi giorni che sono andato a fare la spesa meno, ma tipo domani che devo uscire per forza, perché devo andare in quello che sarà il mio nuovo ufficio a prendere il mio nuovo portatile che mi permetterà di iniziare a lavorare. Attenzione, una breaking news, il mini market sta chiudendo. Oh. Ma è presto, chiudendo. Sì, infatti è uscito la coppia che ovviamente detiene le chiavi, quindi che, diciamo, dovrebbero essere nominalmente proprietari, quindi moglie, marito e due figli. Probabilmente ci sono due figli, perché in realtà sta portando un passeggino completamente chiuso con un tessuto che ricopre il 99,9% di tutto quanto il passeggino, per cui non si vede di quelli coperti. Potrebbe essere che il bambino che sta in piedi è quello che dovrebbe stare dentro, oppure ci potrebbe essere un bambino, oppure del cibo, oppure una bomba per un attentato, non lo sappiamo, però vi lasciamo con questo dubbio. E quindi da mini market è tutto, la linea allo studio. E il gatto? Il gatto è ancora fermo, accoccolato sotto il torrino del palazzo. Adesso proverò a fare una foto da dentro casa. Grazie. Fagli una foto, perché sono curioso. Boh, cioè, una cosa che spesso si consiglia sempre, ho visto che è una cosa che hai avuto in passato, come l'hai affrontata sta cosa? Che mezzi, che strumenti hai usato per... No, io ho fatto un po' di terapia e tra l'altro ho trovato un terapista. Cosa hai imparato? Molto... No, innanzitutto mi ha aiutato a identificare quella che era l'origine. Io sostanzialmente, vabbè, diciamo i cazzi miei, tanto non è che me ne vergogno. No, vabbè, non diciamoli. No, figurati. Io ho una cosa tipo fobia della costrizione. In pratica mi dà fastidio essere obbligato a fare le cose. Lui in realtà aveva avuto questo terapista molto bravo, che iniziò a dedurlo dal fatto che capì che io vestivo quasi sempre una taglia più grande. Disse che era un sin, cioè era abbastanza evidente che mi dava proprio fastidio, non solo a livello fisico ma anche a livello mentale. In realtà è stato abbastanza in gamba da spiegarmi che da questa cosa non è che si guarisce. Ci si impara a convivere, si impara a identificare quello che è l'attacco di panico, quindi fa meno paura, pian piano si spegne. E devo dire, negli ultimi anni, grazie a Dio, non ricordo tranne un'occasione specifica di averne avuti altri, ma devo dire neanche quando sono nati i miei figli, quando sono stato in sala parto con mia moglie, anzi devo dire ho mantenuto un discreto autocontrollo. E allora, cioè, se ma sai, adesso allora. No, veramente. Tra l'altro io la prima figlia è nata che io non ero in sala operatoria, la seconda ho dato retta a un collega che diceva no, guarda, è un'esperienza bellissima, e non a mio padre, il ginecologo, che diceva no, stai fuori, aspetta che finisca tutto, e sono stato in sala operatoria. Stavo dicendo, no, non li ho avuti allora, però sapete cos'è, quando uno ha avuto un evento non proprio bellissimo come sono stati gli eventi di panico, davanti a situazioni come queste ti viene il pensiero, non è che mo riprendo a uscire, gli spazi aperti, le persone mi possono dare quell'effetto, spero di no. Devo dire, domani che per esempio devo farmi qualche chilometro per andare a prendere il portatile della nuova azienda, mi sono posto il problema, non è che non riuscirò più a guidare, queste cose così, però ovviamente, cioè, sono cose irrazionali, poi mi metterò dietro il volante e sarà come se niente fosse successo, però sai, uno il dubbio gli viene. Ragazzi, io saluto Gianluca Sansò che ci ha raggiunto adesso, dice no, ma dovevate avvisare prima, ma in questi giorni vige, non dico l'improvvisazione, però insomma, il coup de théâtre, devi essere sempre pronto. Sempre allerta. Chiudiamo sta parentesi lobby fa consulenza a runtime, perché... Sì, perché adesso ne apro una bestemmiatoria, perché bravo, leggevo bravo. Proprio adesso una notizia, perché a quanto pare in queste ore Salvini abbia esternato delle cose e dovrebbe andare a colloquio con Giuseppe Conte domani. Sì, con Tajani e a Meloni. E i punti che porterà all'attenzione sono un qualcosa proprio geniale. Cosa fa un populista in un momento di questa difficoltà se non proporre sparate? Pieni poteri. Usciamo dall'euro. No, qua quasi, però la sanatoria fiscale ed edilizia. Ah, sì, ho letto. Ah, bravo. Cioè, ragazzi, continuano, devono per forza rimestare nel torbido. Quale può essere il modo per uscire dal pantano? Alimentare il malaffare, cioè, meglio di così. Ma mi spiegate in quale maniera aiuti le persone, che ne so, condonandogli la veranda abusiva che si sono fatti a casa? Ma mi sfugge proprio la logica di questa cosa. No, o le tasse che non hanno pagato e che se non hanno pagato hanno condonato con altre cartelle qualche tipo l'anno scorso, io, per dire. No, facciamone un altro, perché così giustamente puoi non pagare oggi. No. Leggevo appena breaking news, nuova circolare del Viminale: sì, passeggiata a genitore figlio solo vicino a casa, no a jogging. Ma sì, solo genitore 1 o in alternativa genitore 2, non genitore 1, genitore 2 e figlio, vero? Sì, sì, solo un genitore figlio. Il genitore figlio. Oppure due genitori, e il figlio a casa. Vabbè. Comunque ritorno. No, a me va di lusso. Noi siamo due, abbiamo un figlio e una figlia. Quindi mia moglie porta lei, io porto lui. Però non potete incontrarvi, questa è la cosa. Vabbè, saremo a 200 metri in due direzioni opposte. Ah, a posto. Poi, ma con il cane, se c'è anche il cane, poi come funziona? Devi fare sempre da parte, puoi portare anche il cane col figlio. Come, no, in quel funziona? Caso può esserci figlio e cane. Figli e cane, però secondo me non conviene, perché già c'è il cane, tu puoi fare una cosa strategica. No, solo figlio e cane. Ah, ok. Senza genitore, ovviamente. Poi c'è il rischio, però, che quando il figlio è troppo piccolino, il cane è un po' più grande, è il cane che porta a spasso il figlio, non viceversa. Non è un problema del governo, no, no. Vabbè, ritornando alla mega sanatoria, però alla fine lui ci sta pensando e dice: cacchio, tutta comunque, a parte i privati di abusi eccetera eccetera, comunque pure comunque la eucazia, mafia, diciamo, la camorra, scusa, le organizzazioni criminali non se ne stanno vedendo benissimo. Soprattutto io leggevo, soprattutto anche a New York, diciamo, dice che sto fatto del coronavirus ha fatto quello che centinaia di, che per centinaia di anni non sono riuscito a fare. Comunque, visto tutto chiuso, quindi scommesse non se ne possono fare. No, droga. Sì, con la droga è difficile. Sicuramente Salvini stava pensando, in qualche modo dobbiamo agevolare a sta povera gente. Almeno, cioè, non gli facciamo pagare altre cose, quindi gli amici fanno pressione per avere qualche agevolazione. Ah sì, ma ragazzi, che dire, cioè ormai le braccia sono cadute così tanto per terra, hanno praticamente arato il campo e non saprei più cosa aggiungere, insomma, veramente al peggio non c'è mai fine. Una strategia sensata che sia una zero. Una strategia sensata che sia una che dici, cioè, davvero tu dici che davvero non hai capito un cazzo di stagione, non hai capito davvero un cazzo. Cioè, questo poteva essere, tra virgolette, un pochino il momento buono per far vedere: cazzo, fammi fare qualcosa di buono. Invece no, lui continua con le solite cose populiste, cioè alla ricerca di consensi, cioè sta davvero annaspando sempre alla ricerca di consensi. D'altra parte il bacino potenziale è ampio, perché in Italia non è che sono pochi quelli che condonerebbero. Porca puttana, sì. Marco, il tuo terrazzino, quello da cui ci racconti del mondo, è da condonare? No, perché sto in camera, non sto sul terrazzo, sto dalla finestra. Vabbè, ma perché non lo vuoi ammettere? Però lo sappiamo tutti che hai fatto una prolunga. Capito, che c'è il terrazzo che è diventata la mia stanza, ovvio. L'altro mi è arrivata la foto del gatto accuculato. Sì, l'ho vista anch'io. Ma guardalo. Ciao. Dove sta questo sniper? Gatto? Guarda nella chat di Skype. Ah, perché sono girato dall'altro lato. Voi non sapete la configurazione, ma in realtà, ok. Okay. Sì, perché non posso girarla sul PC, però se volete condividete nella chat di Spreaker, perché è una cosa importantissima, la gente deve sapere, deve vedere e deve sapere. Spreaker un po'... Boh. Ma ci provo. Si nota pure il balconcino, che diciamo è la pertinenza dalla quale lui, condonando, vorrebbe vedere il mondo con serenità. Ma io sono già sereno, anche uscendo, quando vedo i carabinieri sono sereno. Comunque Trump frena sulle riaperture, quindi anche lui forse si sta convincendo, però no. Ragazzi, i numeri americani sono drammatici, perché in pochi giorni sono diventati il primo paese al mondo per numero di malati. Tra l'altro le notizie di persone, anche giovani, che muoiono perché gli ospedali non gli forniscono cure in mancanza di assicurazioni, aumentano. Anche oggi ce n'è stata una di un ragazzo in California. Quindi insomma la situazione per lui diventa complicatissima. A pochi mesi dalle elezioni non lo so come ne esce pulito. Veramente oggi ha detto che se riescono a stare entro la soglia dei 100.000 morti è un successo incredibile. Sì, sì, ma questo è il classico dei sovranisti: si danno un target assolutamente autarchico e ovviamente se lo danno comodo da raggiungere. Stavolta ha sbagliato, perché Fauci, l'esperto epidemiologo che vedete spesso dietro di lui, che si mette la faccia tra le mani, sottovoce, invoca la Madonna, quello che vedete molto preoccupato dietro di lui, ha detto che è ragionevole pensare che il numero dei morti possa arrivare a 200.000. Quindi Madonna santa, un olocausto, eh? Sì, ma io in tutto questo, guardate ragazzi, io riesco persino a capire che gente come Trump, come il blocco di Visegrad, stia facendo a chi fa più il macio. Ma quello che mi chiedo io, esattamente in Brasile, che cioè non è un paese che brilla per il coraggio militare, per il macismo, che hanno fatto di male per meritarsi Bolsonaro, che sta dicendo no tranquilli uscite, quando invece i narcos impongono il coprifuoco? Diciamo che il Brasile viene dagli anni di Lula e Youssef, che non sono stati proprio trasparentissimi sotto certi punti di vista, quindi il populismo ha vinto facile. Sì, ma è proprio il macismo di Bolsonaro che non riesco a identificare, ma perlomeno con i pochi brasiliani che ho conosciuto io. Sì, sì, ma anch'io tra quelli che conosco credo che nessuno di loro si sarebbe mai sognato di votare Bolsonaro, però che ti dico? Ma vabbè. E lì secondo me i numeri potrebbero essere veramente d'apocalisse, perché poi il tasso di ricchezza medio di un brasiliano è ancora più basso di quello di un americano, e voglio dire ci sono ancora le favelas, ci sono ancora zone enormi dove voglio dire si fa una vita. Le favelas farà strage insomma lì, quando entra sì. Lì è brutta, lì difatti ci sono i narcos che hanno imposto il coprifuoco, pensate un po' voi. Sì sì, ma in quei posti alla fine la regola le regole le detta chi controlla il territorio, non si può fare altrimenti. Sì, in effetti è uno dei pochi casi in cui la malavita funziona meglio dello Stato, sul serio. Ma, vabbè. Dovrebbe essere un modello da seguire, dai. Beh, importiamo i narcos. Beh, credo che in qualche modo non sia esattamente una novità in Italia. Tra l'altro non so se avete visto 000, la serie di Sky che parla appunto di narcotraffico nell'asse Messico-Italia, in qualche modo. Stati Uniti. Tratto dal libro di Saviano, mi sa. Tratto dal libro di Saviano e realizzata con, diciamo, da Stefano Sollima, che è stato l'autore anche di Romanzo Criminale, Romanzo Criminale, la serie, e credo che abbia lavorato anche alle prime stagioni di Gomorra. Sì, sì, sì, anche Gomorra. Le prime stagioni sicuro, poi le altre anche perché non le ho viste. E quindi ti sei perso l'arrivo dei camorristi hipster che ci sono tipo nella terza o quarta stagione? Sì, prima o poi lo recupererò. Enzuccio, lo dici? Quella è la terza stagione? Ah, sì, okay. Quelli con la barba. Io già la seconda stagione ho detto, cioè, non ho avuto questo entusiasmo di continuarla. La prima stagione mi è piaciuto un casino. Guarda, poi, queste serie, per come la vedo io, hanno soltanto tra l'altro una sorta di elemento che le accomuna tra loro. Quindi mettiamo Romanzo Criminale, no, perché c'era un personaggio che lo rendeva inevitabile, però tra Gomorra e anche 000 eccetera, vedo la completa assoluta mancanza delle autorità. Nel senso, tutta la storia, parliamo di Gomorra in particolare, che si dipana in quattro stagioni, lo Stato non esiste, non è quasi mai nominato. Senti, su 000 inizia con la storia di un poliziotto antidroga che viene rapito, torturato e ucciso, però nel libro, la serie ancora non ho iniziato a vederla, però almeno nel libro... No, non ti dico nulla. Si parla. Vabbè, tutto qua. No, prima o poi me lo vedrò, quando c'ho... Ma devo vedere Westworld. Poi quando Westworld, che dite? Io la seconda l'ho digerita poco, la terza... Ancora Westworld, devo iniziarla, però che dite? Senti, la seconda di Westworld soffre molto dello sciopero degli sceneggiatori che c'è stato quell'anno. Vero. Sicuramente. C'ha un suo senso complesso, nel senso che per capirlo te lo devi guardare più volte. Sì, ci sono tre, la terza, un casino. Sì, la terza, se te la guardi, cioè è molto più lineare. per ora, fino arrivato al terzo episodio, visto oggi, la terza stagione è molto più lineare. Poi lascia stare che a me la prima stagione, prima puntata, mi hai fatto vedere che sono intelligenze artificiali che hanno i punteggi uguali a quelli di Dungeons & Dragons, perché se guardate, quando fanno vedere il... Sì, hanno i punteggi da 1 a 20. Sì, fanno la scheda personaggio. La scheda personaggio con 1 a 20 tutte le caratteristiche. È stato un momento che ho detto, io questo me lo vedrò assolutamente tutto. Poi c'era Anthony Hopkins. C'è anche una cosa della terza stagione che io ancora non ho visto, però ho saputo che c'è un terribilissimo riferimento al Trono di Spade. Sì. No, cioè sono, se ne vedono due in realtà proprio all'inizio, nella seconda puntata. Ci sono pure gli sceneggiatori. Ce n'è uno che era morto. Ci sono pure anche gli sceneggiatori del Trono di Spade. Zaganador ci chiede di non fare spoiler perché non ha visto neanche la prima stagione. Vabbè, non diciamo nulla. Vabbè, ti ho detto una roba solo che è bellissima la prima stagione. Tutto si può dire tranne che non sia bella la prima stagione. Poi c'è un Anthony Hopkins gigantesco per tutta la prima stagione. Maronna. La scena in cui blocca il ristorante. Vabbè, lasciamo. Comunque, già che parliamo di serie TV, approfittiamo per ricordare che domani in diretta dalle 21:30 qui su OGM, qui su Runtime Radio, avremo il mega specialone in cui parleremo, saremo tante voci di Runtime, tutti gli appassionati di Picard, e finalmente parleremo della serie che si è conclusa venerdì scorso. Ci siamo guadagnati il tempo di digerirla. Alessandro, resta perché non ne parliamo, tranquillo, di Westworld. Tra l'altro tra un po' andiamo noi in realtà, però vabbè. Vabbè, quello diciamolo. Beh, insomma, che preparate per cena stasera? A Gualdi non lo chiedo. No, Lobby, chi cucina da te stasera? Da me. Io volevo fare una zuppetta di lenticchie, rapa e patate. Poi col soffritto di porro. Ci metto pure qualche pomodorino secco che lo metto praticamente dovunque. Però ci sta dovunque. Non lo so. Anche nel cappuccino. Nel cappuccino, soprattutto nel ginseng che glielo metti in realtà. Con un po' come cozze e Nutella. Ginseng, sì. A e casa console che si mangia? Bella domanda, in questo momento non sono ancora stato informato, però ho visto che mia moglie faceva la pasta a sfoglia e ha parlato vagamente di farmi la mille foglie, che è un dolce che adoro e che lei fa poco spesso perché è oggettivamente complicato. Mi ha guardato come dai, forse ti accontento, ti faccio la mille foglie. Quindi cena non lo so, ma dolce confido nella mille foglie. Penso sarà la cena, sarà la mille foglie. Se no aspetta, vado a vedere su Facebook e vedo cosa ti sta facendo stasera. Non lo so, perché mentre stavo parlando, lei stava facendo la diretta Facebook con le amiche. Ecco. Cioè, può essere quello. Mo tra un po', tra qualche secondo, è lei che arriva da lui e gli dice: Carmine, che si mangia stasera? Nel senso, che hai cucinato? Guarda, è assolutamente impossibile. Mannaggia. Io so fare solo la pasta, figura, il petto di pollo in padella, probabilmente. Non mi fa fare neanche il caffè perché dice che con la Bialetti lo sbaglio. Mi fa fare solo quello in cialde. E vabbè, ragazzi. È dura, ragazzi. È dura. La vita è difficile. Per lei è molto. No, vabbè, ma adesso mi aspetto un momento di grande riscatto sociale perché mia moglie ha deciso di cominciare a. Lei è un utente avanzata WordPress, però quello preconfigura. Però ha deciso di iniziare a studiarsi approfonditamente WordPress e tutta la parte di PHP, di costruzione dei temi, eccetera, eccetera. Ottimo, poi la mettiamo al lavoro, No, lei francamente vorrebbe dedicarsi solo a quello nella vita. No, lascia sta. Dille così. Guarda. Lascia sta. Vabbè. No, lei in realtà adesso vorrebbe puntare più sulla parte SEO, però voleva avere un'infarinatura tecnica. Certo. Quindi ora è sfora nel mio campo e lì posso essere io a dirle: no, amore, lì l'indentazione non va bene, chiudi il div, queste cacate così. Intanto in chat Alessandro, sempre Zaganador, ci dice: intanto che ci ascolterà domani sera, poi ci dice: pasta e cipolla, alette di pollo al forno e una bottiglia di Bonarda. Pasta e cipolla, sono curioso. Ragazzi. Com'è questa pasta e cipolla? Qua a Genovese, noi la chiamiamo a Genovese. È probabile. Sì. Vero. Se c'è anche il pezzo di bollito, il ragù, insomma, la carne è una, direi, è una sorta di genovese, se no non lo so. Ah, Vediamo se ci risponde. Alessandro, specifica, com'è la festa pasta e cipolla? Che siamo curiosi, vai, va. Scrivi, scrivi. E invece io vi dirò che stasera, che ho un mood un po' triste, ma ho anche, fate conto, mezza bottiglia di latte avanzata da un purè, secondo me finisce al latte e biscotti. Mica vabbè. Metto lì, tranquillo, quali i biscottoni del Mulino Bianco, scusate, quelli che assorbono un sacco di latte. Le macine. Gli abbracci. No, quelli non si può, sono vietati. Devi spezzarli e tenerli a distanza. Infatti, esatto. Devi togliere il bianco dal nero e tenerli a metro, metro di distanza, brutto. Boh, che abbiamo parlato di biscotti, una ricetta che mia moglie però ancora non ha postato su Facebook. Lei un paio di volte ha fatto il tiramisù usando le gocciole extra dark. Boh, può suonare come una bestemmia, però se lo mangiate, secondo me vi ricredete. Le bestemmie di gioia si fa. Guarda, io non ho, come dire, preconcetti per il cibo. Sì, con la crema al mascarpone, quella roba lì. Tutto leggerissimo, ovviamente. Sì, sì, no, ma prima stavo dicendo che esiste la possibilità dell'aumento delle violenze domestiche. Io sono sicuro che mia moglie sta cercando di uccidermi con la glicemia e il colesterolo. Ma guarda che ti assicuro, anche da solo è un problema che avremo tutti. Perché, cioè, veramente, io stesso sabato mi sono messo a fare un dolce, che è una cosa che succede ogni 5 anni. No, beh, buono. Però così, sono piccoli, come dire, piccoli premi che uno si auto-assegna, insomma. Così. Sì. Sì, se trova il lievito, poi dipende dal dolce che devi fare. Allora, intanto Gianluca Cianzò, che dice probabilmente sarà la finta genovese, io gli ho chiesto, ma quindi è una genovese praticamente senza la carne? E ci ha linkato la notizia, o meglio la ricetta, ed è, dice, un sugo alternativo, vediamo un po', pasta corta, va bene. Allora abbiamo cipolle, carote, prosciutto crudo, vino bianco, parmigiano grattugiato, olio d'oliva, eccetera. Quindi sostanzialmente sì, non c'è la carne, però si sostituisce con un salume. Da provare. Da quanto tempo non mangio la genovese? Mamma mia, quanto tempo. Io l'ultima volta l'ho mangiata proprio a Napoli un paio di mesi fa, a Piazza del Gesù, praticamente dietro Piazza del Gesù, in un locale conosciuto, nel senso di amici. Ma qua ce ne abbiamo un casino di cipolle, quasi quasi, sì, nei prossimi giorni mi metto e stagliuzzo. Dai. I tuoi coinquilini l'hanno mai assaggiato questa, come dire, nettare degli dèi? Non lo so, essendo nordici, però no, uno ha origini pugliesi, forse ancora, però sono nati e cresciuti al nord, quindi può darsi anche di no. Vabbè, gli farò provare questo nettare degli dèi, come hai detto tu. Prova la siciliana degli dèi. Idea, che tra l'altro qualche giorno fa uno stava andando a caramellare una cipolla, niente, l'ha carbonizzata, ha dovuto buttare, ma ha consumato una cipolla. Che amarezza. Gianluca dice vai Lobby, vai di genovese. Sì. Che tra l'altro non so a voi, io che non so se avete avuto delle amicizie oppure siete stati voi dei consumatori di marijuana, e dicono sia un toccasana per la fame chimica dopo. La genovese? Sì. E beh, sono 3000 calorie a boccone, sì. Darsi, insomma. C'era un mio amico che la faceva fare apposta dalla mamma, cioè c'era questo la marijuana. Consenso, non consenso. Sì, anche quello, c'era questo consenso, non consenso. Dice mamma, mi fa la marijuana, perché? E mi fa marijuana, vedi? Vabbè, questo è un lapsus, un po' così. Vabbè. Marco, dai, dici anche tu che mangi, poi salutiamo. Sono inappetente. Per me la marijuana era off limits, se dovevo stare con i miei, perché se mi veniva la fame chimica se ne accorgevano. Cioè questo non mangio un cazzo tutto il giorno. Poteva essere una terapia. Con gli amici. Oh, due pizze, le patatine. Oh mamma, no, io mi divertivo a pigliarli per il culo, cioè soprattutto quando si era, cioè la cosa che mi divertivo io a fumo proprio non mi ha mai attizzato il fumo a prescindere, proprio, neanche le sigarette, ammettiamole, però mi divertivo troppo a fare il Paolo, a fare, perché lì poi sei in paranoia. Io faccio sempre che cosa tu, che oh no, ci sei, fosse buscemo, okay. Io mi divertivo un casino. Ma la cosa bella la facevi dopo 3 secondi. Oh, ah, non potete immaginare. Beh, è per questo che hai scelto di fare lo psichiatra dopo. Psicologo, no, lo psicologo, no. Scusa. Ma può darsi che... Vabbè, io prima ho passato facendo il cuoco, no? Non tutti lo sanno, perché ho fatto l'alberghiere in tutto questo. Poi ho avuto l'illuminazione sulla via di Damasco. Dire, ma perché non vado a fare il disoccupato come psicologo? Vabbè, disoccupato non lo sono per adesso, sono libero professionista, quindi sta là. Aspetta, però piccola nota personale. Però il mio destino era un altro. Quindi sei come se fossi disoccupato, ma paghi le tasse. Vedi? Ma sì. Perché quello è libero. Diciamo che c'è un socio di maggioranza che è lo Stato, e due soci di maggioranza, uno è lo Stato e uno è l'EMPAP, cioè la cassa previdenziale degli psicologi. Proprio lo studio di sì, una socio di maggioranza ce l'abbiamo tutti, quella comunque. Cioè, sì. Ti scappa però. Vabbè, io ho pure l'EMPAP che non scherza, però mo sarà battuta pure per i 600 euro per i psicologi. Non so se ne usufruirò o meno, sinceramente, visto che per adesso cioè, due mesi ce li ho coperti. La cassa forense. Tu non hai idea dei soldi che chiede. Vabbè, se c'è un amico avvocato, lo so che c'è... No, lo so. Questo niente. Spiega perché mia moglie vorrebbe fare la sviluppatrice web e non più l'avvocato. Lascia stare, non c'è. È vero che non ci sono alcuni alcuni adempimenti, perché non c'è un albo e non c'è una cassa di riferimento. Sì. Però questo è anche un problema, perché è proprio è un mestiere senza tutele tra i mestieri senza tutele. Lascia stare. No, vabbè, figurati. Chissà, cioè, io in altri stati com'è la situazione? E in altri stati dipende. Ma come sviluppatore o come psicologo, dice? Come informatico. No, come sviluppatore. Sì, informatico in generale. Come io ti posso dire che quello più fortunato che conosco è un parente, tra l'altro, che è sviluppatore però ABAP, quindi lato SAP. E dopo un po' che ha fatto il freelance, il cliente per cui faceva il freelance, che era una banca, tra l'altro, cioè l'ha tipo assunto con la forza in Italia. Cioè, finché ti possono tenere come freelance, ma pure tutta la vita. Vabbè. Che vuoi fa? Ma tanto tu puoi avere tanti clienti. Sì. Quella è la spiegazione che gira. Questo lo so. Vabbè, va già bene. Stasera te ne sei fatto uno, cioè io ti pago. No, faccio il bonifico via PayPal. No, fammi il bonifico via Steam. Dai, mi fai un buono Steam, mi compro un po' di roba. Beh, ti prendo Doom Eternal. Vai con Dio. Ci gioco. Fai come un mio amico al quale devo restituire dei soldi. Ho dei 1000 euro per comprarmi il computer, vero? No, beh, intanto è passata ragazzi. Mia moglie che mi ha portato un pezzo di torta, ragazzi. Grande. Aspetta, sì. Ma non il mille foglie? No, è un ciambellone che sembra al cacao. Attenzione. Al gelato. La usate tipo, che vi posso dire? Com'è che si stracciatella? Vi giuro, stavo per dire Rocky Road. Vedete come vado combinato? È tipo stracciatella con le gocce di cioccolato. Vabbè, lo mangerò dopo, lo direi. Allora, non ti tratteniamo così, non ti si scioglie il gelato. Tra l'altro, siamo veramente arrivati alle 19:30. Io direi che ci possiamo riccamente appropinquare al momento di salutare. Marco, tu vuoi dire ancora qualcosa? Allora, qui dagli spalti la gente è defluita tutta quanta con ordine, c'è sempre la perdita di acqua che non viene riparata, i toliti che si muovono, sta passando un uomo triste con la mascherina sulla fronte e due buste di spesa con la bicicletta. A parte questo è tutto tranquillo, io direi che per oggi è tutto, a voi lo studio. E allora a questo punto, ragazzi, che dire? Non mi resta che salutare Marco Gualdi. Ciao. Carmine Puccio Console. Ciao. Il nostro Francesco H Lobby, H Lobster, H un sacco di H, ma per gli amici Lobby Frontali. Per gli amici anche Caca. Se lo dice lei. E ovviamente salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato quest'oggi in una versione, in una maniera un po' estemporanea, perché veramente non l'abbiamo comunicato con anticipo. Però ringraziamo Gianluca, ringraziamo Alessandro, ringraziamo il buon Alex che ci ha ascoltato, ringraziamo Ciro Capasso, ringraziamo tutti quelli che pavidamente ci ascoltavano e non lo ammetteranno mai. Mai. E non lo ammettete mai, mi raccomando. rispondete solo con nome, cognome e numero di matricola.